известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. What we've seen over the last several years is drift in the U.S.-Russian relationship. There are very real differences between the United States and Russia. And I have no interest in papering those over. But there are also a broad. Questa è una delle prime dichiarazioni, delle numerose, immaginiamo, che Barack Obama rilascerà in queste ore, le ore del G20 di Londra, ore già febbrili, frenetiche, sovraccariche addirittura di notizie dalle strade della protesta che si stanno progressivamente riscaldando, per non dire arroventando, e naturalmente anche invece le stanze del potere, dove cominciano e poi si susseguono in una sempre più ravvicinata, una successione di incontri tra i capi del mondo, se è così possibile dire, perché questo a tutti gli effetti è diventato il G20, no? Nato come forum alla fine del XX secolo, come forum per affrontare e risolvere le crisi finanziarie, adesso è diventato qualcos'altro, è proprio della sua natura. Oggi proveremo a parlare e a discutere con i nostri ospiti. Barack Obama, che ascoltate in apertura, ha usato termini estremamente distensivi nei confronti dell'Unione Sovietica, diciamo che è il primo mattone portato a questo straordinario appuntamento, che però come si potrà risolvere, con un successo, un insuccesso, e soprattutto cosa vuol dire un successo del G20? Qui si parla di difesa missilistica, di nucleare, soprattutto si parla di non proliferazione, della necessità di non essere più nemici, di combattere insieme per il terrorismo, ma sono propositi, espressioni, no? E proprio su questa eccesso di espressioni, di buoni propositi e mancanza di notizie, di fatti, di realtà, forse anche perché a casa sua in questo momento i fatti stanno diventando sempre più pressanti, ha parlato Sarkozy, no? Dicendo che non gli piace come stanno andando le cose, non gli piace quello che per ora sta diventando una bozza di documento, insomma non gli piace in sostanza, mi sembra di capire, il G20 nella sua stessa natura. Ma abbiamo aperto adesso i collegamenti, c'è Mario Platero, di solito lo ascoltiamo da New York, ma è in trasferta a Londra a seguito del G20 e naturalmente della presenza del Presidente Obama al grande appuntamento. Obama dovrebbe aver appena finito un incontro, anche questo annunciato, di straordinaria rilevanza. Ma a Mario io voglio proprio chiedere in partenza, ma Mario, in questi formidabili potenti che si incontrano, si dicono cose splendide, poi where is the beef, come dicono noi i tuoi amici americani, ma si riesce a intravedere qualcosa di sostanza? Ma direi di sì, guarda, intanto la distinzione tecnica, perché i bilaterali avvengono ai margini del G20, quindi certo. La Russia, la Cina, poi avremo domani l'incontro con l'indiano, con altri leader, si è visto anche con Cameron, oggi il leader dell'opposizione qui in Gran Bretagna, quindi ci sono una serie di impegni che ai margini del G20, che poi formalmente comincia domani, o meglio comincia certo, stasera, certo, con la cena, l'incontro con la regina, quindi la pomposità di Buckingham Palace, quindi ecco tutta la celebrazione di questo G20, che vuole risolvere la crisi finanziaria, vuole trovare nuove regole, vuole rilanciare l'economia. Ecco, questo è il G20. E poi ciascuno dei leader ne approfitta per fare degli incontri. Direi che the beef, come dicevi tu, la carne, la sostanza, c'è, perché bene o male nell'incontro con Medvedev Barack Obama ha deciso, di comune accordo con la sua controparte russa, di far partire un negoziato per la riduzione delle armi strategiche, quindi l'accordo START, l'ultimo accordo START per la riduzione appunto delle armi strategiche, ricordiamo le armi strategiche sono armi a testata nucleare, missili a testata, missili intercontinentali a testata nucleare, e quindi missili con una gittata che può raggiungere dalla Russia agli Stati Uniti, diciamo superiore ai 5.000, una gittata superiore ai 5.000 chilometri, ebbene hanno concluso che quell'accordo, pur essendo stato molto positivo, aveva portato le due superpotenze nucleari solo fino a un certo punto, e che è giunto il momento di riaprire il tavolo delle trattative per arrivare a un nuovo accordo. c'è già un'impostazione di massima, ci sono già delle scadenze, l'incarico che entrambi hanno dato ai loro negoziatori è di partire subito per poter essere pronti a luglio. L'altra notizia è che Barack Obama andrà a luglio a Mosca per un vertice con Medvedev e in quell'occasione sperano di poter firmare l'accordo, per cui comunque ci saranno dei risultati, si parla addirittura di qualche migliaio di altre testate che dovrebbero essere eliminate, per cui questo sicuramente è un elemento di sostanza, ma c'è qualcosa di più, c'è il tentativo di riagganciare Mosca, di ritrovare quel calore d'altri tempi che, se vuoi, era addirittura più spontaneo quando c'era ancora il muro di Berlino, quello che abbiamo visto tra Reagan e Gorbaciov ai tempi dei tempi. Ecco, poi le cose sono andate molto bene fino a quel famoso vertice che ci fu, il primo vertice tra Bush e Putin, in cui Bush disse: l'ho guardato negli occhi e so che è un uomo di cui mi posso fidare. Naturalmente dopo si è dovuto ricredere. Ecco, il rapporto con la Russia ha seguito un ciclo di alti e bassi di vario genere, e a questo punto il tentativo di Obama è di riportarli in alto. Sono due presidenti giovani, entrambi hanno parlato dei figli, hanno parlato delle loro famiglie, hanno cercato davvero di stabilire quel contatto, quel rapporto umano, che poi alla fine è molto importante e che a me sembra sia leggermente ostico a Barack Obama, che è più un introverso intellettuale, nonostante lo splendido sorriso, che un uomo dal grande impeto, dal grande abbraccio così di calore. Quindi direi che sul fronte russo qualche cosa è successo. Appena finito anche l'incontro con Hu Jintao. Ecco, dice che dovrebbe avere risvolti molto più legati alla questione economica, no? Sì, il taglio, ci sono meno questioni diciamo politiche da discutere con Hu Jintao. Uh-huh. La Russia, scusa, per finire, c'è poi la questione iraniana, naturalmente, cui Barack Obama aveva aperto a suo tempo, aveva detto di poter fare marcia indietro sullo scudo missilistico che si sta cercando di costruire in Europa se ci sarà l'aiuto da parte di Mosca. Mosca aveva reagito un po' freddamente. Ci sono una serie di conti, c'è l'incontro NATO da cui andremo fra pochi giorni a Strasburgo per il 60° anniversario, quindi l'America che continua a spingere per cercare, così seppure dietro le quinte a questo punto e seppure con fare un po' più rinunciatario, di coinvolgere Georgia e Ucraina, e sappiamo cosa è successo poi con la Georgia. C'è la questione dei diritti umani, su quello non ci hanno detto esattamente, esco appena ora da un briefing che abbiamo avuto da altri funzionari che hanno partecipato a questi incontri, e ci hanno riferito che c'è stato uno straordinario incontro, di straordinario interesse, una straordinaria discussione fra i due sulle questioni legali. Medvedev ha ricordato, voi sapete che Barack Obama era professore di diritto costituzionale, anche lui era un giurista, anche Medvedev, quindi insieme hanno così esplorato.